Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati. Questa è la prima puntata della nuova stagione con la quale ovviamente esordiremo in questa appunto nuova stagione che durerà fino a giugno. Abbiamo tenuto l'uno davanti al numero dell'episodio perché abbiamo considerato le prime tre puntate, che poi in realtà sarebbero soltanto due, come una sorta di anteprima, diciamo così, della stagione 1 che in realtà inizia in questo momento. Faccio questa piccola introduzione semplicemente per dire che ci sono stati alcuni problemi tecnici, ossia praticamente abbiamo dimenticato di premere alcuni tasti che accendevano i microfoni nello studio principale mio e di Marco, e quindi probabilmente sentirete la nostra parte, la nostra traccia, che è quella principale di conduzione, la sentirete insomma non come siete sempre stati abituati. Vi chiedo scusa, portate un po' pazienza, insomma torneremo dal prossimo episodio alla qualità che il PN ci ha sempre abituato. Cercheremo durante la fase di editing di fare del nostro meglio, perché comunque non siamo stati gli unici ad avere dei problemi. Buon ascolto. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici di Italian Podcast Network, di Retrocast e soprattutto di All Games Italia, benvenuti a questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica. Allora, io inizio subito col dire che stiamo registrando un'ora in ritardo perché Simone Pizzi e tutti i pizzini sono rimasti chiusi fuori da casa propria. Prima ringrazieremo. Fatti presentare prima. No, non ce n'è bisogno, la gente ormai mi conosce. Quello che state sentendo, che ha iniziato a parlare a sproposito, è ovviamente Big Joe. Buonasera. Stefano Big Joe. Ciao Stefano, tutto bene? Sì, un po' incasinato, ma bene, dai. No, meglio di me stai comunque. Perlomeno stasera, poi dopo. Sì, dopo non lo so, però per stasera credo di sì, dai. Ok. Guardiamo verso nord e sentiamo il freddolino delle nebbie profonde del lago di Como, e abbiamo Roberto Bertoni. Ciao a tutti ragazzi. Anche detto? Sam. Sam, Marcus, no, Brody. Anche Marcus Brody. Detto Robertone. Vabbè, questa presentazione di rito veramente sottotono per motivi. Oggi ci ha dato a presentare colui che noi amiamo e che lo amiamo talmente tanto che sta attento a te, che prima o poi te becchiamo, il nostro carissimo Luigi Marrone. Ciao a tutti. Allora Luigi anche detto Doc Brown, comunque, perché ovviamente abbiamo ripreso questa cosa un po' dal Ritorno al Futuro, insomma, e, insomma anche con Luigi questa presentazione è molto sottotono, ma il resto della puntata non si è altrettanto. Comunque qui accanto a me, come sempre e come al solito, e non c'è bisogno del bat segnale in questo specifico caso, questa la capiscono solo gli ascoltatori di Multimanie, abbiamo Marco Guardi, il distruggitore. Ciao. Anche Guardi Marco Guardi. Ciao a tutti, bentornati dalle vacanze, speriamo che siete sopravvissuti tutti quanti. Perché le vacanze fanno male, questo ce lo dicono lo stesso. Soprattutto il mio, no? E quindi adesso ricominciamo di nuovo questa stagione di dietrologie e archeologie e vediamo come va. Insomma. E anche retrocastrologie, sì, anche quello riprende a breve. Ti sei allenato, fatti i compiti per le vacanze, Stefano. Ho fatto tutti i vocalizzi, ho fatto ba baby bo bu, ba baby bo bu, che chi compi. Perché io ti ho dato i compiti, dopo voglio vedere se li hai fatti, che li correggiamo. Ba baby bo bu. O il libro delle vacanze, capito? Tipo quello che ti danno. Cioè, il diario del vacanziero, ce l'hai? Sì, sì, siamo anche il sussidiario. Perfetto. Ma quanto devi continuare questa rottura di palle? No, perché insomma, al pubblico non gliene può fregare di meno. Però a questo punto, dato che ci siamo, vediamo, facciamo una... 15 secondi per raccontare le vostre vacanze, tranne Stefano, perché chiaramente è in vacanza da un tipo da quando è nato, in pratica. Vabbè. Io dico partiamo solo da Luigi. Dirò solo una cosa, io vivo dove voi andate in vacanza, questo è un pregio e difetti della cosa, però. Penso che non ce vado in vacanza, perché no, comunque, prego, dove siete andati in vacanza? Luigi. Io non ho fatto vacanza, sono rimasto qui in città a Chieti, ho preso 4 giorni di ferie da lavoro. Madonna. E niente, avevamo un sacco da fare in azienda e... essendo io l'unico dipendente lì in amministrazione sono rimasto lì. Beh, ti hanno schiavizzato in pratica. Sì. Ma ti rifarai a ottobre, novembre? Beh, speriamo, adesso non ho ancora pianificato. Così avrà tutto il tempo di... No, se no lì ce lo vado alla CGL, non c'è mica problema. Che farai nei prossimi 15 anni di altri 2 giorni di ferie? Dai Luigi. Beh, sì. E invece Roberto Bortoni, cioè, se n'è andato al mare, è andato al mare, è tornato da solo, poi è riandato, poi ha fatto, qua e là, destra manca, giusto Roberto? Esatto, poi è stato in montagna, fatica, sudore. Poi fatica e sudore e mi ricordo anche un po' di fatica, però a parte qua tutto bene. Ok, allora io direi che a questo punto, insomma, i convenevoli più inutili e insignificanti li abbiamo fatti. Non abbiamo dato i contatti della nostra trasmissione, che ovviamente è www.dietrologiavideoludica.it. La pagina Facebook è ovviamente Dietrologia Videoludica, ci trovate facilmente. La nostra posta elettronica è dietrologiavideoludica@gmail.com. E poi il Twitter, Marco, il Twitter dillo te perché è Dietrologia Videoludo. Tu sei sicuro? Assolutamente sicuro, come il fatto che l'Orzolinco anche abbia l'ho creato io e vi dico che è giusto. È giusto. Proprio quindi, perché l'ho creato io. Quindi, come abbiamo detto nella giornata di oggi su Facebook, qui si parla di voti, si parla di votazioni, sistemi di votazioni e compagnia bella. Quindi a questo punto entriamo nel vivo della trasmissione, che subito dopo lo stacco ovviamente c'è il famoso compito di lettura di Stefano Biggio. Bene, allora, anche quest'oggi mi diletterò in questo difficile esercizio di lettura. Quindi, questo esercizio di lettura apre l'argomento centrale del nostro podcast, che ora vado a illustrarvi. Quindi, la critica videoludica resta ancora una questione aperta. Dietrologia videoludica vuole presentare, analizzare e commentare in modo approfondito, attraverso una panoramica quanto più completa possibile, sistemi e metodi di votazione del videogioco. Non parliamo di critica relativa al testo delle recensioni, ma solo del metodo di valutazione. Cercheremo di affrontare e spiegare quanto meglio possibile il sistema Metacritic e per questo, nonostante essere molto controverso, rappresenti un punto di valutazione molto considerato nel mondo dei publisher. Vedi il caso Bethesda Obsidian, chiazzero. Riprendendo dall'episodio scorso, dove è stato detto che non esiste una vera critica istituzionalizzata, un vero punto di autorevolezza è che l'insieme di riviste, portali e recensioni siano ancora immature. Rispetto ad altri sistemi di critica artistica, cercheremo di capire in cosa la critica videoludica manca tecnicamente e proporre e ipotizzare nuovi, differenti sistemi di valutazione o giudizio. Finito. Ah, vedi che storia, quasi quasi sei andato. Peccato che non ci hai spiegato un certo punto. Punti, sì. L'hai capito quello che. Sì, più o meno. Sì. Può fare anche riassunto. Cosa ne pensate di come le riviste e tutto l'ambaradan all'interno della critica videoludica? Ho sbagliato proprio iniziando la frase, quindi questo non può che andare male. Io direi, mi piacciono i numeri? Esatto, sì. Mi piacciono le riviste di meccanica. No, allora, semplicemente in che modi vengono dati giudizi sui videogiochi dai vari portali, riviste e cose varie, sino ad arrivare al sistema come Metacritic, che ha un po' monopolizzato tutto questo sistema di giudizio, sul quale c'è, insomma, una serie di cose da dire, ecco. Purtroppo c'è da dire anche che chi ha scritto questa cosa un po', diciamo che i tempi erano un po' la cazzo di cane, ma dato che io non ho fatto niente per migliorare la cosa, sto zitto e niente, affari miei che non me la sono, che non l'ho ancora detta prima. Io che te voglio bene, te do un 7. Ah, grande, ecco. Marco? Vabbè, ti do un 7 anche io, dai. Che comunque torni dalle vacanze, sei un po' spompato, non sei ancora dentro al 100%. Sentiamo dai. Luigi, che invece è il più buono di tutti. Hai paura della morte? Come hai detto così? Che mi tocca, ma ha fatto degli ubriachi. È una citazione della canzone. Sì. Dei Vertigo. Sì. No, io anch'io gli do. Ma io gli direi anche un 7,5 perché sei impegnato. Dai. Ma sì, è stato bravo stavolta. Roberto? Ma io direi un bel 9, visto come si è immedesimato nelle... È l'interpretazione. Che proprio gli esce la libertà dal sedere. La prossima volta la farò anche meglio, promesso. Comunque, ciancio alle bande, direi. Iniziamo. Inizia. Ma no, iniziamo almeno a proporre un argomento di discussione, dai, scusa. Sì, allora prendiamo in mano in maniera seria questa volta la scaletta. Ovviamente chiediamo un po' scusa ai nostri ascoltatori, siamo appena tornati dalle vacanze, quindi siamo ancora, come dire, arrugginiti, ecco, questo è il termine appropriato, tant'è che questo è forse il primo podcast che registriamo in IPN dopo le vacanze, perlomeno io, quindi ci sta. Così sarà anche l'ultimo. E infatti anche sì, potrebbe anche essere, infatti c'è un annuncio da fare a fine puntata. Comunque, in ogni caso, allora, abbiamo detto nelle puntate precedenti, in particolare nella discussione tra me e Luigi Marrone, che probabilmente non è facile, questo lo sosteneva Luigi, non è facile riuscire a paragonare il videogioco come medium ad altri medium, o perlomeno alcuni risulta più istintivo, ad altri risulta molto meno istintivo. A me mi verrebbe abbastanza naturale, però è ovvio che se noi vogliamo analizzare il modo in cui viene criticato e quindi analizzato e recensito un medium come il videogioco, un minimo di approccio con paragoni con altri medium bisogna per forza farlo. Quindi io partirei un attimo da Roberto, che ovviamente è tra di noi forse quello che più è addentro, visto che scrive recensioni per Eurogamer. Esatto, senza S stavolta, sono stato bravissimo. E quali sono, secondo te, anzi, quali sono, insomma, facendo una panoramica, i vari sistemi di valutazione che vengono utilizzati per il videogioco, e qual è la differenza che si fa nella critica di un videogioco rispetto alla critica, ad esempio, di un film? Così, se ovviamente hai elementi di sorta. Guarda, caschi bene perché ho elementi di sorta. Non l'avresti mai detto, ma sono pronto e prontissimo. Ma tu non mi stupisci più. Oh, grazie caro. No, diciamo che sostanzialmente la tua domanda è abbastanza facile per la prima parte. Nel senso che, diciamo che fin dagli albori delle recensioni, sempre cercato di dare un punteggio univoco a quello che potrebbe essere un gioco. Un punteggio che può essere in decimi, in centesimi, in stelline, in monetine, in preservativi. Cioè, ognuno ha la sua votazione un po' particolare, ma diciamo che difficilmente si esce da quello che può essere una votazione, appunto, che possa essere interpretata in maniera univoca, quindi una scala di valori che parta da un minimo a un massimo. E questo allo stesso tempo sia il punto di forza, penso, che un punto di debolezza. Punto di forza perché permette di sintetizzare in maniera semplice e immediata quello che può essere il giudizio di su un titolo. Punto di debolezza perché comunque non sempre è così facile, appunto, dare un carattere univoco a quello che è un'esperienza videoludica. Questo giusto per contestualizzare un attimo il discorso. Per quanto riguarda, giusto anche per poi lasciare magari spazio anche ai miei esimi colleghi come l'esimio dottor Marrone e l'esimio dottor Biggio. Lui sta lì per distruggere, quindi giustamente la critica a priori è a prioristico. No, dicevo che tu mi chiedevi anche il paragone magari con quello che è il discorso del film. Diciamo, quello che noto sostanzialmente è che per il film si cerca di avere una critica spesso un pochino più approfondita, nel senso che ci trovano sempre recensioni numeriche magari meno importanti, meno rilevanti, ma si cerca magari di analizzare un po' più quello che è il contesto. A questo riguardo lancio questo primo spunto, poi eventualmente lo approfondiamo più avanti. Segnalo una piccola inversione di tendenza, nel senso che su un giornale che ho avuto la fortuna di trovarmi fra le mani, che si chiama Segno Cinema, c'è uno speciale in cui viene rapportato il videogioco con quello che è il cinema, cercando di lineare quelli che possono essere i punti di contatto e di differenza, e quindi si fa una, ci sono una serie di saggi che vanno ad analizzare anche quello che è il contesto di quello che può essere una votazione o meno. Quindi sicuramente ci possono essere delle analogie o delle differenze. Sicuramente quello che sarebbe fra virgolette forse più sbagliato a fare è cercare di applicare le stesse metodologie a un medium diverso, quindi il cinema rispetto che a quello che è il videogioco. Cioè, i punti di contatto ci possono essere, però la valutazione deve essere sicuramente portata con principi e strumenti diversi, strumenti che nel videogioco purtroppo mancano. Chiudo dicendo che appunto secondo me in questo momento il fine ultimo del gioco è fare, scusami, il fine ultimo di una recensione è fare più una guida all'acquisto più che dare una discriminante ontologica di quello che può essere un titolo. Questa parte anche io poi ho un'ulteriore domanda e poi mi sviluppo, però andiamo a Luigi. Sì, mi potete ripetere un attimo la domanda, non so su cosa svilupparla la risposta. No, in realtà nel senso quello che chiedevamo ovviamente è quali sono i vari differenti sistemi di valutazione che si utilizzano nelle riviste o nelle testate rispetto al videogioco, e quali possono essere le differenze della critica del videogioco rispetto alla critica di un film, ad esempio, no? Ah, ok. Beh, la mia esperienza, ho visto che le diverse modalità di votazione solitamente si basano su un principio di quantità, quindi più un indice è alto, possono essere le stelline, può essere un numero o qualsiasi altro tipo di indice di valutazione, e più teoricamente dovrebbe il prodotto, chiamalo prodotto, in questo caso l'artefatto culturale, artistico, dir si voglia, è di qualità. Solo che ovviamente io, se posso aprire una parentesi, non faccio mai coincidere la quantità con la qualità, quindi già mi sembra ovviamente una valutazione di parte, molto di parte, quello di usare un indice quantitativo per esprimere un giudizio qualitativo. Che volevo dirti? Paragonare due forme espressive differenti dal punto di vista di un sistema critico di valutazione, come in questo caso facciamo l'esempio massimo che è il cinema con il videogioco, significa secondo me fraintendere quelli che sono gli specifici dell'artefatto culturale che andiamo ad analizzare, perché che poi l'errore che fa Metacritic ovviamente non ha, all'interno del videogioco stesso non ritengo che si possano accomunare due esperienze che hanno fruizione totalmente differente con un sistema critico che è il medesimo, perché si rischia ovviamente di mettere sullo stesso piano, che poi è un difetto della modernità, quello di livellare lo specifico espressivo di un artefatto culturale, di livellare quindi la propria identità, la propria individualità, e quindi facendo rischiare di perdere quella che è la personalità di un prodotto. Quindi già partiamo, diciamo, da una valutazione che è, insomma, è fuorviante quando andiamo a livellare due prodotti differenti come specifici su uno stesso sistema critico che pretende di essere il medesimo. Tutto qua. Beh, questo mi hai dato dei buoni spunti, infatti poi già vorrei fare delle altre sottodomande. Stefano? Ma io non saprei, insomma, più o meno cosa aggiungere. Mi viene un po' difficile. Mi sembra che tutto sommato comunque i sistemi di critica tra film e videogiochi siano basati sullo stesso principio, e poi chiaramente vengano sviluppati in criteri diversi, nel senso si guardano a cose diverse nelle varie cose, insomma. Per ora, come venga realizzata nello specifico la valutazione del gioco, questo penso che sia estremamente soggettivo, ma tendenzialmente si tende sempre a dare appunto, come stava dicendo Luigi, un certo voto, che nel senso che faccia capire, partendo da un numero basso, da un numero alto, da 4 stelle a massimo, a una per il minimo, insomma, darti una valutazione immediata di quello che può essere il prodotto, anche se non hai voglia di leggerti la recensione. Ecco, secondo me è quello. Uno dei problemi di cui magari parleremo in seguito della critica, secondo me, è proprio quello che il voto così immediato non ti dà tempo di riflettere. Cioè tu vedi che magari ha preso uno quel gioco e non leggi neanche la recensione, non ti preoccupi del perché sul voto. Idem per quanto riguarda i film, cioè tu dici ha preso un voto basso, è un film di merda. Magari, insomma, non è proprio così, però insomma, così va il mondo circa, questo non vale per tutti ovviamente, ma in linea di massima. Questa è un po' una puntata ibrida che si basa sia sul discorso dei voti che sul discorso poi del tipo di critica, no? Perché poi anche su quello che diceva Luigi prima, cioè noi sappiamo su che cosa si basa la critica di un film, no? Sì, beh, più o meno, no? Comunque sì, la storia, la regia, esatto, la fotografia, sì. La sceneggiatura, cioè comunque il modo in cui le varie, esatto, il modo in cui le varie parti, le varie componenti artistiche dell'opera comunque vengono realizzate. Suppongo che tutto sommato questo possa valere anche per il videogioco, chiaramente sui vari reparti che sono chiaramente differenti, no? Quindi parliamo della tecnica, quindi dal punto di vista grafico, sonoro, possiamo parlare sì ovviamente della giocabilità che magari è al posto, che ne so, della... Diciamo che nel totale delle recensioni entrano anche, che ne so, la grafica, i bug, che magari un film di mente non ci sono anche. Lo dici te. I bug no, però sono errori comunque che spesso e volentieri sono più o meno mascherati, ma ci stanno anche. Bloopers. Sì, no, ma il problema non è quello che va a finire nei bloopers, il problema è quello che va a finire nel film finale, che tante volte, cioè, vedi, ne abbiamo viste, no? Ma lo stesso Kubrick commetteva importanti errori dal punto di vista quello generale. Non era un errore, era arte. Vabbè, comunque è come quando sbagli suonando e dici che è jazz, capito? Esatto, bravo. Non sai che cos'è jazz. Marco, quindi sì, più o meno le stesse cose, perché alla fine è vero che serve come guida all'acquisto, però a questo punto il fatto che ci sia una votazione implica che ci sia anche un diverso livello di gradimento perché del film o del gioco, perché basterebbe solo dire è bello, è brutto. Viene dato un voto proprio perché probabilmente c'è anche la necessità di dividere quello che è il prodotto finale tra quelli che sono bellissimi, quelli che sono meno belli, quelli che sono così e così. Quindi c'è anche un po' più della ricerca del dare un consiglio per l'acquisto. Sì, però allora rimaniamo sempre su questa specie di pseudo confronto, che poi alla fine paradossalmente è il confronto più naturale, che se ne dica comunque in qualche maniera allo stato attuale di oggi, a meno che ovviamente non parliamo di videogiochi indie, quindi videogiochi che sono più simili a quelli che è la reale tradizione del videogioco, ma parliamo magari dei videogiochi più moderni, quelli insomma mainstream, no? Quindi che ne so, quelli AAA, no? Quelli più narrativi. Alla fine comunque il confronto col videogioco ti viene. E la domanda che vi pongo, stavolta iniziamo da Stefano, è perché la valutazione di un videogioco al di sotto del 9 viene già considerato, diciamo, tra virgolette, un gioco mediocre, nel senso quasi un non c'è più quasi la priorità d'acquisto. Qual è il meccanismo logico che porta a questo? Soprattutto perché poi invece nell'ambito prettamente cinematografico un film che prende un 8 o un 7, sempre tenendo in considerazione questo tipo di valutazioni, continua a essere considerato un film più che eccellente, insomma. Allora, io ti dico che non lo so. No, non è vero. Non lo so in effetti, perché per me è una cosa abbastanza inconcepibile. Perché appunto trovo assurdo che se un gioco prende, cioè per me se un gioco prende 6 dovrebbe essere un gioco sufficiente, quindi non una ciofeca, ma neanche un capolavoro. Però un gioco normale, medio, buono. Che si difende. Sì, cioè che fa il suo senza punti di eccellenza, né insomma troppe parti negative, però ci siamo. 7, un po' meglio, insomma, classica votazione stile scuola, ecco. Forse sono io che ho troppo la mentalità scolastica, tra virgolette, per quanto riguarda i voti. Però comunque mi sembra che ci si basi in generale su quello. Nel cinema, appunto, 8, 7 sono voti di eccellenza, e se è sotto il 9 il gioco non è ottimo, addirittura sento che magari in giochi come Starcraft 2 o altri concitati, insomma, di capolavori di un certo tipo, se non viene dato neanche un 9,5 ma mettono 9.3, c'è gente che si lamenta. Meritava almeno un 9,5, non un 9,3. Dai, cioè, non esageriamo. Lì si arriva, ok, quello è questa è un'estremizzazione sicuramente. Però sul meccanismo logico, secondo me, è una questione di... forse, ipotizzando, potrebbe essere data dalla novità, dal fatto che la critica videoludica, dal fatto che comunque anche il pubblico che legge le riviste o i siti che si occupano di videogiochi è relativamente giovane, non in senso anagrafico ma in senso giovane come tipologia di pubblico, quindi magari vuoi dire che sono più attirati dalle stelline che dalla valutazione in sé, nel senso più dalla cosa, sì, il 9.9, cioè, esatto. No? Sì, che quindi magari non ha ancora sviluppato un certo senso critico per il quale, anche se metti un 7, il gioco non è per forza una merda, ma è comunque un bel gioco, cioè un gioco buono. È 8, un gioco ancora migliore, cioè, e così via. Potrebbe, cioè, a me a scuola se mi mettevano 7 facevo penso ma che io, ma figurati, ma stiamo scherzando. Siamo tutti, anzi, sono tutti dei secchioni videoludici, praticamente. Sì. Bisogna prendere almeno 9, se no sono delle merde. Marco, tu che ne pensi? Ma secondo me... Perché? Perché, cioè, secondo te c'è una logica dietro a questa differenza di concezione? Secondo me c'è stato proprio un errore, o comunque qualche problema all'inizio, perché secondo me c'è proprio un sistema che un meccanismo che è drogato. Quindi qualche cosa c'è stato proprio da come Stefano. Come Stefano, ovviamente. E quindi adesso, cioè, andate a fare, cioè, il metro di paragone è 8 è sufficiente, 7 è quasi sufficiente, 6 è una merda. Perché praticamente è diventato così. Cioè, se tu non metti su un gioco non c'è un 8,5, 9, praticamente scritto. Ma già 8,5 è basso, cioè, È spina sufficiente, quella è la cosa. Secondo me proprio c'è un problema all'inizio, proprio. C'è stato qualche cosa che ha fatto in modo che per spingere qualche gioco particolare hanno cominciato a mettere dei voti fuori misure. Si è talmente radicata la cosa che ormai veramente il 9 è il minimo che deve avere un gioco di una certa caratura. Perché sennò... No, perché anche perché, scusa, ti interrompo, a questo punto è proprio inutile la votazione da 1 a 10. Ecco, infatti, che te dicevo io. Da 10 a 100, cioè nel senso basta. Se una stellina è figo, 2 stelline è proprio figo, 3 stelline è fighissimo, e tutto il resto che non c'ha stelline è una merda. Cioè, a questo punto. Cioè, ci metti un cazzetto. Un cazzetto è una merda. Non lo so, Stefano. Sì, Stefano, scusa, Roberto. Sì. Ho diversi spunti, cerco di condensarli per non tediarvi troppo e fare in modo che il mio caro amico Luigi Marrone possa rimanere sveglio. Ti ringrazio per il caro amico. Figurati, ti scrivo. Ti scrivo, così. No, allora, primo punto, e condivido, prendo un attimo quello che dice Simone, il fatto che trovo poco sensato una votazione che abbia uno spettro troppo ampio di discriminante. Nel senso che una votazione che anche guarda da 1 a 100 con i mezzi voti, centesimi e quant'altro, secondo me cerca di fare il pelo nell'uovo in quella che comunque è un'esperienza. Detto questo, il discorso, mi piace il discorso del pensare che la valutazione sia importante soprattutto per una fascia di età che ha ricevuto a scuola un imprinting dove la scala, pur da 1 a 10, è stata notevolmente ridotta. Adesso, giusto per dare un esempio, nella mia carriera scolastica mediamente i voti andavano da 4 all'8, giusto? Sebbene in teoria ci potesse essere la possibilità di andare da 1 al 10, quindi comunque l'utilizzo della scala ridotta ha, diciamo, in qualche modo fatto pensare che un 7 possa essere già un voto abbastanza scarso. E tra l'altro, a differenza di oggi, oggi 10 fioccano come se. Lo dico per esperienza personale. Grande, riprenditi 7. No, perché lui adesso va a serali e prende. No, nel senso che avendo un parco dentro casa, vedo che magari, che ne so, il mese X prende, che ne so, ha preso 5, devo recuperare, studia, il mese dopo ha preso 10. Cioè. Perfetto. Giusto. Sì, no, ha studiato, è giusto che venga premiato, però è proprio il modo, cioè... Lì c'è perfezione, in teoria, è... Nella scuola, ma comunque non ti paghiamo. Ok, perfetto, le avventure del giovane signor Pizzi non ci interessano. Sì, manca proprio l'equilibrio, cioè secondo me manca proprio l'equilibrio, cioè, non è possibile che in un mese... tu passi da 3 a 10, no? O da... vabbè, comunque. Ok, ultimi due spunti. Scusami, due spunti per chiudere. Giusto così a memoria, ricordo che il fenomeno di valutazioni alte è presente sin dagli albori. Adesso mi ricordo che Games Machine chiaramente presentava anche Ciofeche sotto il 75, quando utilizzava i centesimi, se non ricordo. Cioè era proprio raro vedere dei giochi che in qualche modo arrivassero all'insufficienza, sebbene poi nella recensione venissero bollati come giochi da lasciar perdere. Probabilmente per premiare comunque gli sforzi economici fatti per produrlo, però comunque giustamente come si diceva non è una valutazione oggettiva. Chiudo per collegarmi ancora al discorso del cinema, che probabilmente inizio a buttarlo come spunto, eventualmente approfondiamo. Mentre il cinema è un'esperienza univoca, quindi se io vado a vedere il film inizia e finisce allo stesso modo di come se il film va a vedere Simone o Stefano, inizia e finisce allo stesso modo al di là di quelle che sono le emozioni. Il videogioco presenta una molteplicità di esperienze, nel senso è praticamente impossibile che due persone vivano dall'inizio alla fine lo stesso gioco. Quindi cosa comporta? Che se io ho una valutazione su un'esperienza, cioè questa è un'ipotesi che faccio, una valutazione su un'esperienza univoca, mi fido di più che un 7 o un 8 si possa essere un buon prodotto. Se ho una valutazione sull'esperienza multipla molto basso, vuol dire che è proprio difficile che io in qualche modo possa trovare qualcosa di positivo su questo gioco, quindi per me un 6 ha una valenza magari più negativa. Si è capito? Hai finito? Sì. Ah, perché non abbiamo letto il punto, no? Infatti è mancato il punto. No, comunque ribadisco, faccio parlare Luigi e poi faccio una domanda al volo a tutti quanti. Allora, io magari tocco, sono d'accordo con quello che avete detto, ovviamente vado a toccare magari un punto collaterale. Io penso che la critica videoludica abbia ancora il suo peso culturale nel far decidere su un prodotto sull'acquisto o meno. Che voglio dire con questo? Vuol dire che la critica è quindi un'attività culturale che essendo che oggi fondamentalmente non c'è una critica che ci permette di farci affezionare a un prodotto soltanto per il modo con cui se ne parla, ma soltanto si guarda il modo con cui lo si vota, quindi come il voto che sta in calce, ovviamente questo va a non valorizzare quello che è la cultura anche di chi va a leggere. Con questo voglio dire che andando al cinema a vedere un film posso avere esperienze molto differenti e riferimenti molto differenti dato lo stesso film rispetto alla mia cultura, così come riguarda un videogioco ovviamente, cioè l'approccio culturale è una cosa molto stratificata che riguarda vari aspetti che mi possono far apprezzare un videogioco, come invece un'altra persona non dice assolutamente nulla. Io quindi parto da questo presupposto per dire che c'è bisogno di una cultura che sia che possa, di una cultura della critica che possa toccare vari aspetti i più quanti possibili affinché chi va a godere di un'opera, vuole andarla a acquistare, possa avere anche un ampliamento mentale di quello che va dell'artefatto culturale che va a prendere in mano, che va a pesare, a giocare. Non essendoci questo fondamentalmente oggi, non essendo incentivata questa parte più che altro, perché siamo basati sui numeri, quindi il numero è qualcosa che va visto subito ed è effetto immediato, cade moltissimo secondo me del discorso legato a come vengono valutati gli artefatti culturali, artistici in questo caso. Quindi mi piaceva anche magari sottolineare questo aspetto qui, cioè non va incentivata la cultura della critica e quindi diventa anche molto relativo il discorso sul numero che viene assegnato a un prodotto artistico. Ok, a questo punto mi avete fatto venire tutti e quattro una considerazione, la faccio anch'io, che è quella che se io innanzitutto non voglio incensare la critica cinematografica assolutamente, perché anche lì ci sono abomini di ogni genere, no? Ma come su ogni tipo di critica, perché poi comunque la critica, per quanto tecnica possa essere, comunque sempre un'espressione soggettiva di un'opinione rispetto a quello che tu hai visto o hai provato. Sì. Detto questo, comunque chi fa critica cinematografica spesso e volentieri è comunque una persona che nell'ambito ci ha magari studiato, no? Magari è cresciuto sviluppando la propria cultura sull'ambito. A differenza invece, questo era un po' quello che diceva anche Roberto, il problema delle votazioni e quindi della critica videoludica è che già dagli albori, che era una critica insomma tendente all'entusiastico, no? Nel senso che probabilmente chi faceva critica videoludica già dagli albori in realtà chi erano? Erano ragazzi che sicuramente non avevano tecnicamente studiato, tra virgolette, il mezzo come puoi aver studiato il cinema, e che sicuramente da giovani ovviamente tendevano ad avere magari una posizione più positivista, no? Più entusiasta, no? Rispetto a un un'opera cinematografica o magari fatta da una persona un po' più matura. Potrebbe essere anche questo un po' il discorso, perché poi in realtà se diciamo che questo problema delle votazioni alte e che quindi da questa eccessiva misura della scala, perché poi alla fine vengono utilizzati veramente 3 o 4 voti di quella scala, insomma, potrebbe essere un po' anche questo insomma il vero problema. Cioè, e ritornando un po' a quello che diceva Luigi la volta scorsa, il fatto che comunque c'è ancora un'immaturità proprio di fondo all'interno di quello che è l'ambiente della critica videoludica, non tanto rispetto alle persone o alla tecnica della critica, ma proprio come movimento in sé, cioè come fenomeno in sé. Sì, come si è assestata. Esatto, parti tu Luigi. Mi riformulo una domanda un po' più sintetica, su cosa dovrei... No, parlare? Nel senso che secondo te comunque ribadisci il tuo concetto del fatto che rispetto ad altre forme di critica comunque la critica videoludica deve ancora crescere insomma fondamentalmente. Ma guarda, io ciò che temo è che si stia incentivando moltissimo la velocità di fruizione, quindi la velocità in sé come presupposto della modernità rispetto alla qualità della critica. Questo che vuol dire? Vuol dire che così come vende tantissimo un Call of Duty rispetto a un Ico o un Okami, faccio un esempio fra tanti, così incassa di più un Batman, faccio un esempio, rispetto a un altro film X d'autore. Questo perché? Perché oltre all'età grafica di chi va a giocare a vedere i film, è proprio la, secondo me il tempo che ci si sa dedicare, che ci si può dedicare rispetto a quanto si vuole approfondire un certo tipo di prodotto e quindi anche un tipo di critica riguardo al videogioco o di cultura legato a ciò che il prodotto presuppone a tutto intorno. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che sì, è una situazione in cui, secondo me, la critica, ma tutto in genere, il mondo, secondo me, viaggia su questo aspetto in bilico fra la velocità e la quantità rispetto alla qualità. La qualità sta diventando qualcosa di molto relativo, oggi come oggi, e quindi è chiaro che diminuendo la qualità devono cambiare anche i sistemi di riferimento, per fare il discorso dell'altra volta, di una critica che più che vogliamo, più che possiamo, cerchiamo di rendere istituzionalizzata. Istituzionalizzata intendo proprio cioè che ci sia una scuola, un'organicità legata al modo di fare critica, che se tu vai a vedere oggi la maggior parte dei siti più o meno la fanno allo stesso modo, cioè più o meno difficilmente trovi una critica che per personalità ti si fa innamorare magari di quell'autore che fa critica o di quel giocatore o di quel modo di intendere un po' il videogioco. Vedo nei forum che molte volte ci sono alcune personalità di spicco che stanno proprio nei forum, non sono critici, non sono editorialisti, sono persone che stanno lì e a un certo punto dico aspettiamo adesso cosa ne dice che ne so, il nickname X su quel gioco, come se avesse la sua autorità nel farti innamorare del gioco perché ne sa parlare per quanto riguarda la storia, ne sa parlare per quanto riguarda tanti altri aspetti che ti fanno probabilmente davvero innamorare poi del gioco, lo valorizzano al punto tale che tu vuoi possederla quell'opera, anche se magari non l'avresti mai comprata se avessi letto soltanto della critica. Con questo non voglio dire che è l'unico modo di fare critica, perché bisogna essere per forza profondi, bisogna per forza essere acculturati al massimo o pieni di riferimenti videoludici e non. comunque questo aspetto molte volte passa troppo in secondo piano e sicuramente non incentiva un sistema critico che sente il bisogno di evolvere, di aggiungere magari di qualità, per tornare al termine su indicato, e per cui penso che è proprio una distorsione tipica, un presupposto della modernità, quello di avere fretta di vedere il voto, di legittimare un giudizio che non vada a prendersi la responsabilità di approfondirlo, di essere approfondito da solo, perché necessita tempo e sforzo. Ci sarebbe da fare adesso un discorso particolare che mi fa pensare a Alessandro Baricco, che ha scritto questo bellissimo libro chiamato I Barbari, non so se l'avete letto. No. Ci limitiamo a conoscere Alessandro Baricco. Sì, Baricco lo conosco, ma quello tu Roberto l'hai letto? Sì, ho letto anche il seguito su Wired, non so se ho avuto occasione di... Sì, l'ho letto anch'io su Wired cartaceo, sì. Prima che fosse su... Ok, no, praticamente lui parla moltissimo di questo metodo conoscitivo che ormai è stratificato, nel senso noi tendiamo a conoscere in maniera orizzontale piuttosto che verticale, perché ovviamente la verticalità presuppone l'andare a fondo e andare a impegnarci a scavare sotto. Buona, invece ciao a noi, insomma. Esattamente, come stiamo facendo in questo momento, che infatti non ci ascolterà nessuno perché, perché... non ti vede. A quantomeno a me non mi ascolterà. Ci ascolterà multiplayer perché gli abbiamo detto che abbiamo parlato male l'ultima puntata, quindi voglio sentire se continuiamo. E niente, quindi no, vi invito a leggere magari questo saggio perché è interessante, perché parla proprio di metodi conoscitivi che secondo me sono anche identitari rispetto a come oggi approcciamo, mi ci metto anch'io di mezzo, a molti artefatti culturali, artistici. Ok, Marco? Allora, innanzitutto, se tu te la ricordi, perché io ascoltando Luigi mi sono dimenticato la domanda, se mi puoi anche ripeterla, perché no. Sai, lui è lugubre, io poi per stargli dietro devo controllare le RAM continuamente. Fondamentalmente, cioè, sono partito dal presupposto anche abbastanza logico del fatto che comunque la critica videoludica è più giovane, quindi è sicuramente più immatura, no? Rispetto, e tende a essere probabilmente un po' più entusiastica. Scanzonata. Sì, è anche il discorso che faceva Stefano, quindi c'è una certa giovinosità, no? giovinanza. Come lui. Come no, giovinanza. E quindi sì, probabilmente anche questa è un po' tutto un insieme di cose, quindi c'è questa... voler far vedere qualcosa di normale come se fosse bellissimo e quindi dargli un voto alto, e anche un po' questa cosa drogata di avere un concetto dei voti che è un po' avulso da quello che è la normalità, o forse siamo noi che non ci abbiamo capito una mazza, magari per l'ambito videoludico funziona così e basta, cioè sì, però cioè, funziona così, ci deve essere la logica, cioè, perché per me 7 è 7, 8 è 8, 9 è 9, vabbè, cioè, però magari in altre culture non è così. Ah beh sì, può essere pure che la cultura videoludica, i può essere, insomma, magari 7... i romulani pensano che un 7 sia un voto e 10 sia un insulto. Sì, infatti, sì, chiaro, certo, questo sono d'accordo con te, ma insomma non credo che sia questo il tema. Voi dico, comunque, forse è un dogma, per ritornare alla vecchia puntata, e voi comunque dite che i publisher non c'entrano niente, io continuo. No, Roberto dice che i publisher non c'entrano niente, Roberto. E quello è l'unico davvero coinvolto. E infatti non a caso è l'unico che si è proprio sperticato, dire che... Esatto. Ma poi hanno rilasciato tua moglie dopo l'ultima puntata che era stata rapita. No, Roberto. Pensavo fosse stata rapita. No, va bene. Sotto casa adesso, però porta qua tutto a posto. Ah, va bene. Comunque io penso, insomma, che Stefano. No, dico solo che appunto il sistema va modificato, va aggiornato agli standard attuali, forse somigliando un po' più a quelli del cinema. E per il resto penso che abbiano detto tutto Luigi e Marco, quindi non mi dilungo a ripetere queste cose, sinceramente. Sì, ma infatti secondo me è proprio il sistema in sé che deve crescere da questo punto di vista, perché... E se fosse già cresciuto? Ma è sbilanciato, comunque è sbilanciato. Il problema è quello, capito? Cioè, per quanto sia... Bisogna abbatterlo. No, abbattiamo il sistema. Ricostruiamolo. Roberto, non è scaletta, ma ti faccio una domanda, poi dopo a ruota vengono anche gli altri. No, aspetta, io come difensore di Roberto, lui non si è preparato su questa cosa, potrebbe anche avere una risposta fallace. Fallace, però tu fammi fare la domanda, poi Poi appellarti la facoltà di rispondere comunque. Okay. Vai, sono pronto. Come come scrivi, come si scrive tecnicamente una recensione, e come fai la valutazione, o come si fa la valutazione, ovviamente partendo rispetto alla tua esperienza personale, no? Allora, solitamente cosa faccio? Accendo il computer, apro un word processor. Non giochi prima, quindi scrivi a cazzo di cane. No, chiaro. No, prima scrivi la recensione, poi la gioco. Poi dopo la gioca. Con l'IVA, quanto l'ho scritto, se sì, bene. Sono smussa. No, no. E devi dettagliare, come dire, fare più, insomma, quali criteri di valutazione, cioè, o meglio, come ottieni un risultato finale di tipo numerico, ad esempio, nel tuo caso. Vedi. Oh, questa domanda posta bene. Ma no, la domanda andava bene anche prima, perché in realtà non ti credi che tutti, cioè, sanno, ovviamente non è che ti ho detto spiegami nel dettaglio, cioè nel senso, comunque, qual è la struttura della tua analisi, no? Come analizzi tu un gioco, quindi ovviamente scrivi la recensione e di conseguenza, come ha detto Stefano, come dai poi una valutazione finale anche dal punto di vista numerico, se dai una valutazione dal punto di vista numerico, perché cari amici di Eurogamer, io non ho mai letto la recensione. Ma non perché non le faccia. Vabbè, un saluto agli amici di Eurogamer, che no, vogliamo bene sicuramente anche loro adesso, anche lo ascolteranno noi la prossima puntata per insultarci, figurati. Veramente ben posta. E no, giustamente tu dici, penso che il punto focale sia quello relativo al voto, nel senso che, vabbè, come dicevo l'altra volta, la struttura di quella che può essere la recensione va a toccare diversi ambiti, quindi cercando di, partendo dal presupposto che deve essere quanto più possibile una guida all'acquisto più che un'analisi tecnica o culturale, quello che può essere un certo videogioco, questo appunto perché il target è di un certo tipo su un sito di questo tipo. Il discorso del voto è particolare, nel senso che deve essere un mix fra quello che è la qualità, passatemi il termine, oggettiva, quindi utilizzando virgolette, di quella che è l'opera, contestualizzata con quello che è quello che in questo periodo storico, in quel periodo storico in cui questo gioco viene valutato, la concorrenza, nel senso che non si può mai, personalmente, nel momento in cui vado a dare un voto che può essere una guida all'acquisto, non fare in qualche modo riferimento a quello che in questo momento c'è sul mercato, nel senso che sarebbe comunque una valutazione parziale che non renderebbe giustizia, nel senso, se io darti un voto per dirti se a me è meglio che compri questo gioco A rispetto a che un gioco B, probabilmente ha senso che in qualche modo abbia ben consapevole qual è il gioco B in questo momento. Quindi sicuramente a costruzione del voto entrano questi parametri. Poi andando più nello specifico, personalmente cerco magari di dare più peso in quella che è la valutazione a quella che è l'esperienza complessiva, andando magari a dare minor peso a un carattere tecnico dell'opera. Questo senza chiudere gli occhi nel caso in cui ci sono grossi difetti o grosse lacune in questo senso. Non so se ho centrato un po' quello che volete sapere, oppure se sono uscito fuori seminato. Sì, Stefano, sei soddisfatto? Sì, io sono sempre soddisfatto da Roberto, no, in tutti i sensi. Grazie. Vabbè, ti chiede soddisfatto, dice delle cazzate, non lo capisci, lo devi dire. Vabbè. Diceva sempre la maestra. Se non mi hai capito, te lo spiego. Se sto qui a dire tutte le volte che non ho capito, facciamo un po' di 25 ore. Comunque. Vabbè, per esempio tu, Stefano, in maniera diversa anche tu comunque fai le recensioni, hai spiegato l'altra volta sul fatto dei libri, ma poi penso che hai scritto anche delle recensioni videoludiche, no? Magari anche sì, a titolo personale. Personale. No, io non metto, non uso i numeri per come valutazione, perché non mi piace, quindi a meno che non mi venga richiesto, chiaramente, ma se non mi viene richiesto io faccio una recensione che così chicchi di bottarga. Esatto, quei chicchi di bottarga che sono sempre molto buoni. No, sinceramente, ecco, sono curioso. No, io personalmente non uso numeri, cioè nel senso, il senso di quello che voglio dire è nella recensione, non è nella valutazione. Quindi, come dire, per capirlo, ognuno poi si fa l'idea che vuole. Ecco, io preferisco dare, lasciare più libertà a chi legge in questo senso. Tipo, quindi, le tue recensioni sono dei fogli bianchi. Più o meno. Cioè, c'è scritto solo gioca al gioco e poi dimmi com'è andata. Più o meno una cosa. Ricordiamo che nei prossimi giorni, insomma, usciranno recensioni sia del distruggitore che di Stefano, quindi insomma stiamo facendo una insieme, addirittura. Pensa che storia, ragazzi, No, forse quello è un modo anche per capire in che maniera voi intendete un po' questo tipo di... Infatti ho letto la sua parte ma non ho capito. Non ho capito se devo... Sicuramente il fatto di non utilizzare una valutazione, qualsiasi essa sia, numerica o anche verbale, no? Nel senso buono, sì. No, ecco, cioè nel senso io dico buono, va bene, cioè nel senso, si capisce se il gioco mi è piaciuto però o se mi ha fatto schifo, però... Mentalmente te lo fai il tuo numero, dai. Sì, mentalmente magari me lo faccio, però io la giudico una cosa talmente soggettiva che mi sembra quasi inutile dirla, tra virgolette, perché non pretendo che neanche gli altri siano d'accordo con la mia recensione in generale, meno che mai che quella valutazione sia precisa, ecco, cioè, mi sentirei quasi in colpa a fare una valutazione. Madonna, tra virgolette, ovviamente. Però dico, a meno che mi venga richiesto, in quel caso allora cerco di essere molto più oggettivo e dare un voto che sia, metti dall'1 al 10, il più simile possibile. E cercando sempre di non... ecco, nel caso dovessi dare un voto che è un 7, magari visto com'è l'andazzo, spiegherei che il 7 per me è quel tipo di cosa. Esatto, è un voto buono. Certo. Oppure se mi viene chiesto, guarda che comunque, cioè se vedo che sto scrivendo per un sito che dal 9 in giù fanno schifo, al gioco mi è piaciuto, allora gli do 9. Questo certo. Cambia in base chiaramente alle situazioni. Un po' da prostituta, insomma. No, ma dico, si adatta alle necessità. È la vita. Il distruggitore, no, beh, quello è vero. Comunque ti adatti in base a quello che ti viene chiesto da chi ti dà il pane. Tutto sommato è così dappertutto, eh. Perché il pane? Vabbè, lasciamo perdere. Ti dà il pene, esatto. Luigi, per esempio, non scrive recensioni, però qualora dovessi decidere di scrivere una recensione, che tipo di sistema di valutazione useresti? Qual è il modo in cui tu, insomma, ti vincoleresti da questo fardello della valutazione? Allora, tutte le volte che soltanto immaginare di mettere un voto sotto qualcosa mi farebbe sentire personalmente, a livello di personalità intendo, già classificato dentro un bel telaio che dice ok, è una recensione. Il voto per me paradossalmente un po' delegittima quella che è la personalità di chi va a scrivere. Ovviamente sono d'accordo con quello che dice Roberto, perché tu stai facendo un servizio di guida all'acquisto, come la maggior parte delle recensioni è, non ti puoi esimere da mettere il voto. Io, per come sono fatto io, per il mio contributo mensile a PlayStation Magazine, tra l'altro, che è semplicemente di opinione, farei come faceva all'inizio Next Game, poi diventata videogame.it, che non metteva voti alla fine delle recensioni, ma avevano comunque un sistema di valutazione interno che usavano soltanto nella loro mailing list personale fra i collaboratori, in cui ci appippavano un voto sotto. Ma questo voto era un qualcosa che aggiungevano loro per una velocità di lettura all'interno della redazione, indicativa, che non compariva invece sul sito. Già mi piaceva molto di più come approccio questo qui. Però ti ripeto, sempre prendendo spunto quello che ha detto Roberto, oggi se ti consideri un recensore che deve fare una guida all'acquisto, è un conto. Se invece ti vuoi considerare un critico d'arte del videogioco, tra virgolette, ovviamente potresti pure tralasciare completamente l'aspetto numerico della tua critica. Ma io penso che su questo aspetto in parecchi di noi, insomma, siamo abbastanza d'accordo. È chiaro che ci dobbiamo rendere conto del fatto che in una rivista o in una testata poi alla fine questo aspetto della valutazione, anche numerico, anche sintetico, anche solo visivo, quindi comunque il logo, il bollino che comunque la testata dà a quel gioco è indispensabile, anche proprio per una questione editoriale, purtroppo. E a questo punto passo la palla a Marco, che okay? Marco, nella sua distruggizzazione, insomma, che sembra che sta lì a rompere solo i coglioni, ma in realtà poi lui pensa ogni tanto e si è inventato tra una distruzione e l'altra si è inventato, e come potete già vederlo sul sito di etrologiavideoludica.it, dove ci sono già un paio di sue recensioni, lui si è inventato un suo metodo di valutazione, che ora ce lo spiega, e vediamo se può avere un senso anche per una rivista o per una testata. Che va a pasta asciutta praticamente questo sistema di edizione. A parte che io faccio dei commenti, consigli per gli acquisti, insomma, proprio per le recensioni. Ma in realtà quello dovrebbe essere una recensione, perché comunque, cioè, a me della tua valutazione di quello che sei andato a vedere al cinema me ne frega fino a un certo punto. Quello che mi interessa è sapere se vale la pena, no? Esatto. Usufruire di quel prodotto. Quindi, a parte che in questi consigli, commenti, faccio un po' un riassunto di quella che è la trama e poi descrivo un po' le varie features, come sono sviluppate, come sono implementate nel gioco, le praticamente metto in relazione con cose simili di altri giochi, quindi vedo le differenze, vedo cosa funziona e cosa non funziona. Ho un sistema di valutazione che va in base a tre fasce di colore praticamente. La fascia verde, cioè un gioco che vale la pena comprare perché comunque è un bel gioco. Significa che ci sono pochi bug, o che se ci sono sono ininfluenti o sono stati risolti quasi subito dalla software house. C'è una fascia gialla in cui il gioco sì è bello, però se non, diciamo, non è univocamente bello, cioè è molto, molto di nicchia, cioè è un gioco che se non ti piace quel tipo di genere è inutile proprio che lo cominci, perché è proprio fuori dall'umana media. Faccio l'esempio, l'ultimo che è uscito, Dark Souls, è un gioco sicuramente bello, però non è per tutti, insomma, non è un gioco che può essere giocato da tutti quanti, insomma, è molto nicchio. La fascia rossa è proprio quello che ti domandi, ma che cazzo ho comprato a fare? È proprio una cosa... Dopodiché ci sono delle sotto... Te riassumo, fascia verde da giocare è consigliato, fascia gialla solo per gli appassionati del genere, perché altrimenti gli altri proprio non lo digerirebbero, fascia rossa perché l'hai comprato. Questo è un po'... Poi c'è un'importanza temporale, cioè quanto questo gioco ti rimane in memoria, cioè dimenticabile, è un gioco che lo giochi, magari ti piace anche lì per lì, ma poi te ne scordi tutto. Tipo il primo Horizon, lì per lì mi è anche piaciuto, perché comunque, pur avendo le sue magagne, però poi me lo sono dimenticato completamente, cioè proprio completamente rimosso. Ricordabile è quel gioco che comunque ti lascia dei ricordi. Potrebbe anche essere una merda il gioco, perché magari te lo ricordi proprio perché fa schifo, quindi ci sono delle parti che ti ricordi di quel gioco. Indimenticabile, cioè un gioco che non potrai non ricordare, come un poco citato Mass Effect, un qualcosa di cui non abbiamo mai parlato. Legend of Zelda, Ocarina of Time, un Shadow of the Colossus e via dicendo. Poi c'è una rifinitura tecnica in cui ci sono anche qui altre tre come si può dire, sotto definizioni, quindi metteteci una pezza, cioè proprio quei giochi tipo lo Skyrim della prima ora, dove c'erano bug assurdi, ma anche Gothic, ma anche Gothic 3 specialmente. Poi c'è la fascia, mi sa che non erano script, cioè praticamente quei giochi che puoi completare, ci sono dei bug ma puoi finire e poi godertelo appieno. Ci sono dei bug magari grafici, tipo la testa di tempo per tornare al poco citato Mass Effect, le teste che si girano di quasi 180 gradi o fissano il vuoto, però che ti permettono di, in ogni caso questi bug ti permettono di finire il gioco. E poi ci sono quelli, c'è la fascia disinfestata, che praticamente significa che non ci sono bug o perlomeno sono talmente insignificanti che neanche ci fai caso. E ovviamente il gioco va a essere inserito in una fascia di colore, quindi se fascia verde, giallo, rosso. Dopodiché la sua importanza nella memoria facciamo un esempio, così almeno se voi andate ovviamente sul sito di ideologiavideoludica.it, lui sulla recensione di Max Payne 3, alla fine fascia verde, dimenticabile, disinfestato, cioè nel senso è comunque un buon gioco che dopo un po' se l'ha giocato sti gran cazzi, e che comunque tecnicamente è un buon prodotto. Questo tu intendi, insomma. Esatto. Allora ragazzi, secondo voi c'ha senso? Può essere un... Roberto, se spacco tutto io, Roberto, partiamo da te, dai. Roberto? No, sto pensando alla mia macchina in base a quello che rispondo. La mia lunga mano non arriva fino a lì, quindi allora tranquillo. No, diciamo che secondo me è un buon tentativo di cercare di trovare un'alternativa appunto su quella che può essere una recensione. Diciamo che secondo me alla fine ricade appunto, come giustamente diceva anche prima Luigi, sempre al concetto di guida all'acquisto, quindi in sì, questo infatti, senso lo scopo è anche quello, poi una metodologia che secondo me potrebbe essere applicata tranquillamente anche in altri contesti. Diciamo che quello che è il voto numerico tante volte cerca di fare una, diciamo, passami il termine, una media di quelli che sono i tre fattori che tu esponi, con una chiarezza che è più o meno diretta, spesso non molto, a volte può essere sufficiente un voto numerico per riassumere un po' quello che è il contesto. Diciamo. È più diretta o indiretta, scusa? Diretta, mi sono perso, diretta. Capito? Nel senso che io ho un voto finale 8, che è una media fra un 10 di analisi tecnica, di un 5 di quello che può essere la valenza ludica e un 8 di quello che è l'esperienza complessiva. Quindi alla fine il voto numerico tende ad essere molto più riassuntivo, quindi hai pro e contro. Diciamo, ma questa forse è anche una questione di abitudine, però sicuramente, ma e mancanza di coraggio. Quello che lui sintetizza in tre fattori viene sintetizzato da un voto che viene estrapolato di più in quello che è la recensione. Quello che manca secondo me in questo contesto è, finché ragioniamo nell'ottica di guida all'acquisto, secondo me, ripeto, è un'ottima metodologia e secondo me probabilmente spesso potrebbe risultare più chiara di quello che è il semplice voto numerico. Manca però di approfondire un po' quello che è il lato più critico, sicuramente, che probabilmente neanche, da quanto ho capito, non era neanche lo scopo di Marco, ma che è altrettanto importante, nel senso che quello può essere semplicemente ad esempio un'analisi storica o un'analisi comparativa rispetto a quello che c'è stato in precedenza, può essere più, diciamo, più una valenza maggiore rispetto a quello che è la costruzione di una critica vera e propria, questo sì. Stefano? Puoi rifarmi la domanda? La macchina, non ho sentito la mia macchina, no, scherzando. No, allora, sinceramente può funzionare questo sistema? Sì, secondo me lascia comunque più libertà rispetto al voto chiuso, ecco, cioè al singolo numero. Poi per quanto mi riguarda, ma forse scusa Stefano, poi certo. Dopo finisci. Forse la domanda posta meglio è, cioè, tu lo gradisci di più o lo gradiresti di più? Ecco, per me sì, credo di sì. Rispetto al singolo numero, rispetto sì, a... mi lascia, appunto, penso che lasciando più libertà io lo troverei più, più adatto per quanto mi riguarda, come, proprio come interpretazione in generale, dato che non essendo così chiuso, appunto, ti lascia modo di dire, ok, questo è un gioco buono, questo è un gioco così così, questo è un gioco cosa, però comunque ti fai le tue valutazioni, ecco, devi leggerti la recensione per arrivare a capire perché è stato dato quel tipo di valutazione. Quella è la cosa, cioè secondo me la valutazione deve anche un po' portarti a leggere quello che c'è scritto in casi, insomma, si parla però di persone un po' interessate, ecco, il bimbo minchia che a cui interessa vedere quanto hanno dato l'ultimo Gears of War, magari deve solo vedere il voto, ah è alto, beh allora lo prendo, ciao. Invece lì magari una persona più interessata si legge bene la recensione, si fa una sua idea al di là del voto, ecco. Però questo è un metodo che, no, secondo me funziona. La mia macchina è a posto, anche perché io non ho una macchina, quindi non c'è nessun problema. No, c'è il motorino. No, una moto. Una moto che sto anche vendendo, quindi se qualcuno è interessato a una moto... Comunque tu, Armin, mi ha fatto riflettere anche sul fatto che la domanda finale, che poi vabbè adesso la faccio ma non rispondete perché poi ora passo a Luigi rispetto alla valutazione di Marco, è per chi si scrive? Vabbè, ne parliamo dopo. Per chi è che scriviamo? Ne parliamo dopo. Io assolutamente per me stesso. Allora, per curare le mie turbe. Luigi, secondo te questo abbozzo, insomma, questo particolare tentativo, sì, insomma, di Marco... Ma ti rispondo, guarda, con una provocazione direttamente a te, Simone. Mi associo ovviamente a quello che hanno detto sia quello che ha proposto Marco come sistema sia quello che hanno risposto Roberto e Stefano, e ti dico, c'è una canzone dei Blue Vertigo chiamata Zero, Z-R-O, che a un certo punto Morgan dice in tutto quello che la gente fa nei giudizi non è che cosa ma è come lo si fa. Se applichiamo questo aspetto alla critica, in questo caso videoludica, non è tutto quello che la gente legge nei giudizi, non è che cosa, quindi non è come il videogioco, ma è come fai la critica. questo si avvicina secondo me a un buon modo di fare critica. E mi ha fatto pensare che quando prima ti ho detto tu non hai mai scritto una recensione, probabilmente io con non volevo dire, cioè dico che allo stato attuale tu non scrivi recensioni. Sì, ma hai ragione, non ho mai scritto una recensione. Infatti non ho mai scritto una recensione io, cioè era effettivamente ragione. E ho pensato però che mi sono sempre soddisfatto con quello che ho scritto, che è stata poi una guida all'acquisto, se vuoi, con la metodologia Marco, cioè scrivere per me stesso, non andando a parlare del gioco in sé o di quello che potevi performare o quello che potevi fare, perché non era una guida all'acquisto ovviamente, ma parlando di aspetti che hanno esaltato il videogioco, come avrei voluto sentirlo leggere, come avrei voluto vederlo o leggerlo io, in che senso, non per masturbarmi, ma per vedere quali sono gli aspetti, se vuoi poetici, se vuoi diciamo legati agli ambiti di genere, quindi fantascientifici, fantasy eccetera, che mi avrebbero potuto far innamorare di un videogioco solo per come se ne è scritto, non tanto come per come se ne è valutato poi alla fine. E quindi niente, ti faccio questa domanda: in tutto quello che fa nei giudizi, in tutto quello che la gente fa nei giudizi, non è che cosa, ma è come lo si fa. Tu come lo vedi questo in ambito di critica videoludica? Sì, sono assolutamente d'accordo. Il problema, lo sai qual è? È che noi ci piace infilarci in questi approfondimenti, poi in realtà da una parte, ecco la domanda che ho fatto prima, no? Per chi scriviamo, cioè non per chi scriviamo noi, per chi vengono scritte le recensioni. Il problema è non è tanto il critico o il come possiamo criticare o come dici te, il modo in cui lo possiamo fare o lo vogliamo fare. Il problema secondo me è sempre che chi fa questo mestiere, tra virgolette, quindi chi lo fa professionalmente, lo fa per un pubblico, e il pubblico probabilmente è forse la nota dolente in questo momento, perché sono molto più attenti al bollino, appunto, al voto, piuttosto che alla critica stessa. Ed ecco probabilmente qual è il motivo per il quale la critica fa fatica ad evolvere anche da un certo punto di vista. Questa è la mia opinione. Ritornando invece a quello che ha detto Marco, io non credo che realmente ognuno scriva per se stesso, cioè uno scrive di se stesso o delle proprie opinioni, ma se uno scrive e pubblica perché comunque fa piacere che venga letto, presuppongo, no? Poi altrimenti uno non farebbe, come uno dice io faccio l'attore, perché fai l'attore? Perché ti piace essere guardato. Questa è il fatto di poter interpretare. Perché fare la prostituta? Perché mi piace, non i soldi. O come mi disse quella ragazza in Lituania, perché così mi posso comprare scarpe italiane da 150 euro. No, va bene. Scusate, non voglio sapere altro. O forse sì, non lo so. Scusate. Sostanzialmente diciamo che è corretto quello che dicevi. Il problema grosso è il campione di siti viene utilizzato, nel senso che ci sono due votazioni, diciamo, una professionale e una degli utenti. All'interno di quella professionale vengono presi una serie di siti con scale valutazioni estremamente difficili, differenti fra di loro, in qualche modo devono essere riportate in una scala per centesimi, quindi già questo c'è il primo problema. Il secondo problema è che all'interno dei siti ufficiali vengono spesso messi anche siti che ufficiali non sono e che quindi concorrono in qualche modo a drogare le medie. Questo per fare due precisazioni al volo. Cioè nel senso che dovrebbe rappresentare una media tra le votazioni di varie riviste o siti o testate e via dicendo, soltanto che dato che queste testate hanno sistemi di valutazione diversi, non è attendibile poi il conteggio finale, questo tu intendi? Esatto, ma c'è un algoritmo oppure c'è qualcuno che lo fa a mano? Perché? No, da quanto ho modo di capire e vedere, non è qualcosa che viene fatto a mano, ma è un semplice media numerica. Il problema è che spesso ci sono siti che non hanno valutazione, ad esempio, in centesimi, e quindi una differenza fra un 7 e un 8 è molto più marcata, e può esserci fra uno che ha un 70, 75, un 80 per intenderci. Mm-hmm. Quindi chiaramente la media in qualche modo risulta, diciamo, zoppicante, se vogliamo. E che intendi quando dici che ci sono siti che vengono, cioè valutazioni che vengono considerate ufficiali, cioè nel senso? Perché nel senso che alcuni siti che vengono proposti fra quelli, diciamo, di riferimento non sono l'Eurogamer di turno, ma sono un poco più che sito amatoriale, quindi capisci che non c'è un peso dato a un peso maggiore, ad esempio, sito da un multiplayer o un Eurogamer rispetto al sito di pincopallino.com. Mm. Ah, questo è interessante. Cioè, quindi, tipo, se noi ci mettiamo a dare valutazioni, Metacritic potrebbe prendere in considerazione l'idea di Videologia.it. Sì, cioè, ma dico, ad esempio, come sito non facente parte di una come dire, adesso sono in un terreno abbastanza difficile, ecco. Quindi non vorrei dire. Cioè, ma in termini di dialettici? No, in termini. Come dire, di rapporti interpersonali. No, per dire che non è un sito professionale, cioè professionale neanche quello volevo dire. Come dire, non è un sito magari grande quanto multiplayer che si occupa e vive di quello, ma è un sito un po' più piccolo. Ecco, da quel punto di vista, quindi magari il giudizio è più particolare, non è assimilabile a quello che può essere il giudizio di multiplayer per certi versi. Guarda, te levo io da sta difficoltà, insultando anche presenti qui. Insultando, sì, ma cioè, stesso che, tra l'altro, considerando che ne faccio parte. Esatto. No, te stesso no, non mi permetterei mai, io te voglio troppo bene. Diciamo che in Metacritic vengono considerati siti come Eurogamer, così come magari vengono considerati siti tipo AllGamesItalia.net. Esatto, ecco il paragone che non mi viene. Era questo che volevi dire. Esatto, no? Precisamente è questo. Io l'avevo capito. Povero Robertone. Comunque, va bene, direi. Come Roberto, a questo punto, scusa, l'ultima domanda e poi dopo entriamo nel piccolo dibattito finale. Ma Metacritic, qual è la sua funzione? Cioè, come nasce? O perlomeno qual è il suo scopo? Perché? Ma soprattutto, perché? No, fondamentalmente Metacritic, che ripeto, sempre con le sue mie conoscenze, nasce come aggregatore di voti, quindi per fornire una panoramica di quello che è la proposta di un prodotto sul mercato, diciamo, che è diventato poi nel tempo un punto di riferimento, come potete immaginare, anche per quello che è la valutazione del proprio operato. Sempre, sebbene bisogna fare una distinzione fra paese e paese, in Italia ad esempio ha una valenza pressoché nulla. No, vabbè, però diciamo che il suo scopo era quello di creare una sorta di standard universale, no? Hai detto quella morte del quadro. Più altro è fornire appunto una panoramica per capire, partendo dal presupposto che ogni recensore ha una sua soggettività, cercare di trovare una oggettività nel voto facendo la media di più punti di vista. Luigi, tu per esempio ritieni corretto che all'interno di un sistema che pare comunque avere anche le sue buone considerazioni anche a livello ufficiale, anche a livello commerciale, siano presenti insomma sia siti professionali che siti amatoriali? È presente quando da bambini ci si fa la domanda: secondo te qual è il gioco più bello del mondo? È presente? Sì. È ovviamente una considerazione spropositata ed egocentrica che si fa ovviamente fra bimbi, che però semplifica di molto le cose. La stessa cosa fa Metacritic, è una risorsa egocentrica per avere un'autorità planetaria, quindi è totalmente sballata come realtà. Prendere un sito amatoriale che però ha una buona visualizzazione di citazione su Google, mettiamo, e metterci assieme una rivista online o cartacea a dir si voglia, che ha una sua invece tiratura abbastanza marcata. E niente, il fatto per parlare di Metacritic, io dico che tutto viene ridotto allo stesso piano, viene livellato con Metacritic, che ripeto è una distorsione tipica, è un presupposto della modernità, ciò che fanno le tecnologie moderne, quando per esempio prendi un tablet, un iPad e ci ficchi dentro un PDF con un romanzo di Dostoevsky, per esempio, e uno di Stephen King, non potrebbero convivere assieme da un punto di vista storico, se vuoi, filologico. Eppure viene messo tutto quanto assieme, perché la modernità è questo, un calderone, una cultura gem che sta tutta quanta appiccicata. E siccome Metacritic forse è l'apice finale della distorsione massima di cui parlavamo prima, cioè la mancanza di un approfondimento filologico di un determinato artefatto artistico, che poi non sviluppa nemmeno una cultura della critica, ma un semplice numero. Infatti Metacritic è una metacritica, per definizione, sì, beh, certo. Cioè va la trascende, ci va oltre, cerca di porsi veramente su un piedistallo di autorevolezza numerica. E la cosa bella però è che non vuole fare critica, perché su Metacritic non c'è recensione, se ci fate caso, cioè semplicemente un numero, certo. E ci sono poi utenti o altro, però non si vuole fregiare dell'autorità di fare recensioni, però si permette di dare un voto globale all'esperienza pigliandola tutto in mano. È anche peggio, cioè è peggio, è quasi una deresponsabilizzazione legata a non fare critica e al contempo però avere una voce finale in capitolo. Esatto, bravo. E questo vizio del numero penetra certi modi di intendere la critica culturale videoludica in questo caso, e abitua i consumatori a pensare che il numero o il paragone fra i vari numeri siano degli indici attendibili di valutazione di un prodotto. Ecco perché è fuorviante Metacritic da un punto di vista culturale, secondo me. E penso di aver risposto anche alla tua domanda sul fatto di farci convivere all'interno con un calderone. Certo. Diversi modi in di realtà fare è critica, che secondo noi no, di là Marco, ora la domanda vuole leggere a Marco, però cioè, forse probabilmente è proprio il Metacritic in sé essere sbagliato, no? Quindi è un po', vabbè, sì, comunque Marco, ma non è che dico che sia sbagliato come concetto, perché potrebbe anche essere, cioè, come idea sensata. Ma perché magari vuoi fare una media di tutti i voti, perché magari prendendo più voti si ha una visione più realistica di quello che potrebbe essere la bellezza o il valore di un'opera, di quello che potrebbe essere sensato. Vuoi anche perché magari vuoi conquistare il mondo, perché magari ha questa intenzione. Proprio perché poi si basa sul fatto che i voti li danno delle persone, che ci sono persone che fanno critica e danno dei voti con condizioni di causa, e ci sono quelli che invece si buttano da e riempiono l'etere di merda, per cui poi sicuramente va a perdersi quella che è l'idea di base. Quindi il problema è chi va poi a metterci mano, che potrebbe, anzi che sicuramente fa diventare Metacritic secondo me con un scarso valore. Per noi, sì. Per me rappresenta proprio l'esempio più lampante del fatto che c'è un problema con le valutazioni in generale. Nel caso di Metacritic è proprio una cosa a livello globale, non è una cosa a livello solo italiano, ecco. Cioè espone proprio in maniera più palese di tutti il nervo, proprio. Sì, sì, secondo me è così. Cioè, allora, Metacritic è sbagliato di base proprio per il fatto, come stava dicendo Roberto prima, per il fatto che che mischia tanti sistemi di valutazione, e in più fa capire che non è questo il sistema giusto per valutare determinate cose, dovrebbe essere molto più frastagliato, molto più dettagliato per essere preciso, così rimane solo, non lo so, un insieme di voti messi tutti assieme grazie a una media matematica. È troppo freddo come sistema, ecco, non tiene conto di tanti fattori, a cominciare anche dagli stessi numeri, quindi è proprio, cioè io lo giudico il male nella critica in questo periodo, e il problema è che tutti si basano, cioè tutti tendono a basarsi su Metacritic per valutare una determinata cosa o come metro di paragone per i giochi, e cioè sì, ma questo gioco ha preso un voto più alto su Metacritic rispetto a questo, però bisogna stare lì a guardare nel dettaglio per capire se è davvero così attendibile Metacritic, e secondo me non lo è. Guarda appunto giochi che hanno preso voti alti incredibili 2 minuti dopo che sono usciti, ma 2 minuti di orologio, è impossibile che quello sia stato una valutazione effettiva da parte dei giocatori in primis, non solo dei recensori. Loro chiaramente sono tenuti a scriverlo con un certo criterio, i giocatori no. Quindi insomma è troppo relativa come cosa, la vedo abbastanza malfatta da un punto di vista non malfatto, nel senso che è un brutto sito che funziona male, ma proprio concettualmente è proprio l'apice dell'errore Metacritic, secondo me. Certo. E poi invece su multiplayer.it ad esempio, no? C'è la valutazione della redazione, c'è la valutazione del pubblico. Al massimo, no? La cosa interessante può essere quando questi voti, diciamo, in linea massima più o meno coincidono. Allora a quel punto dici ok, non solo la valutazione del redattore, ma comunque diciamo incontra poi magari il consenso generale del pubblico, perché significa che evidentemente quel gioco più o meno, insomma, magari ha quella valutazione lì. Però tornando a Metacritic, invece la domanda che ci facciamo a sto punto è: perché Metacritic influisce in maniera così preponderante nella vita e nella storia di un videogioco? Addirittura viene considerato quasi come un metro di giudizio ufficiale, anzi addirittura viene usato proprio come tipo di forma di valutazione finale anche nei rapporti commerciali tra publisher e sviluppatori, come addirittura il famoso caso, insomma, abbiamo citato magari credo anche svariate volte, Bethesda Obsidian, col fatto di Fallout New Vegas, se non sbaglio, no? C'era anche la questione del publisher che sta producendo Bioshock, che ha prodotto il vecchio Bioshock, che stava assumendo personale in base anche ai giochi che avevano fatto gli aspiranti, appunto, programmatori che volevano entrare nella società, e in base ai voti che avevano preso questi giochi su Metacritic, cioè che avevano dovuto prendere, se non sbaglio, almeno insomma, 75 anche qui, o comunque stavano valutando, insomma, delle assunzioni in base anche a questi voti qua. Poi è rientrato perché questa cosa l'hanno ritirata, cioè non toglie che magari poi quando vanno a vedere il curriculum del programmatore, vanno a vedere i giochi, magari se li guardano loro senza dirlo in giro, quindi per darsi pure che lo facciano già, capito? No, infatti poi partiamo da Luigi, scusa, ho avuto un momento di lapsus. Sì. Vabbè, la questione di Obsidian con Bethesda, lo ricordiamo, riguardava un bonus che Obsidian avrebbe ricevuto da Bethesda qualora il voto Metacritic fosse stato superiore al 7.8, 85, vabbè, insomma, comunque, e puta caso il voto di Metacritic era mezzo punto o un punto in meno, 84. Ok, e quindi tutto quello che abbiamo detto in precedenza, il fatto che comunque in qualche maniera Metacritic lascia, insomma, notevoli dubbi, questi strani accordi che puta caso poi alla fine vanno a verificarsi a favore del publisher piuttosto che dello sviluppatore, insomma, non soltanto diventa inspiegabile, ma lascia anche adito, insomma, a sospetti, no, sul sistema in sé. Beh, che la forza di Metacritic viene dal fatto che prendendo valutazioni a livello internazionale ti permette di, cioè, tu puoi dire: guarda che hai fatto un gioco schifoso ed è riconosciuto a livello mondiale, per dire. Quindi la forza è quella proprio di aggregare tante valutazioni assieme, facendolo in maniera per me sbagliata, però facendolo. Quindi tu puoi dire: oh, io ho preso come giudizio, ne ho preso 8.000 di valutazioni. Se queste 8.000 valutazioni in media hanno detto che il gioco fa schifo, il gioco fa schifo, capito? Cioè si basano sul queste valutazioni, quindi si basano proprio sulla loro sul numero, sulla quantità e non sulla qualità, come disse Luigi a suo tempo. Quindi è come dire che i dischi di Laura Pausini sono dei bei dischi perché sono comprati da milioni di persone in tutto il mondo. Non è vero. Non è oggettivamente vero. Però se uno viene a dirmi così, io non è che posso dire, cioè, come dire, anche lui da un certo punto di vista un po' ha ragione, da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista numerico. Quindi dici: beh, no, guarda che Laura Pausini ha venduto tanti dischi, invece non lo so, i King Crimson non ne vendono quanto lei. Ma io, Luigi, intanto perché sì, secondo te Metacritic è diventato così influente? Ripeto quello che dicevo prima: è un presupposto della modernità, la velocità di consultazione. La velocità di consultazione Metacritic che e volontariamente evita la descrizione prolissa di recensione o di fare critica, ci mette soltanto questo voto o delle piccole pillole di descrittive, e tu come publisher o come sviluppatore hai già il voto, hai già il riferimento, tanto da poterlo prendere come addirittura come tutti i numeri, tipo il Superenalotto, come un indice per le trattative commerciali, come le chiamate tu prima, cioè fare delle scommesse perché la significa veramente ridurre l'arte e il riconoscimento anche artistico, in questo caso economico, a una questione puramente numerica, che è qualcosa che fa caponare la pelle. Cioè l'arte dovrebbe essere slegata totalmente da questi aspetti numerici o indicizzati. E quindi niente, è una distorsione, e su questo sto esprimendo il mio giudizio di valore di Metacritic, su Metacritic è una distorsione di quella che è una psicopatologia della modernità, cioè basarsi sulla velocità di consultazione, sul minor tempo possibile per avere un responso, in questo caso collettivo e planetario. E se ci fate caso, Metacritic non ha fatto altro che prendere questa pulsione nervosa alla consultazione di un videogiocatore quando va a leggere una recensione che si butta direttamente al voto e amplificarla a livello globale. Cioè ha detto alle persone interessa soltanto il numero, fondamentalmente. Quindi a noi che ce ne frega di fare l'ennesimo sito di critica videoludica. Facciamo un sito in cui ci sono soltanto i numeri per quanto riguarda i film, per quanto riguarda i prodotti, gli artefatti e via. E vediamo che avremo ritorni di pubblicità perché tantissima gente cliccherà qua sopra. Avremo una visibilità mondiale e quindi saremo valutati in qualche modo. E via. Quindi hanno giocato tutto questo sui numeri. E sinceramente, qua vado a concludere, non è il numero che mi fa innamorare del videogioco, è tutt'altro. Quindi, ma comunque diciamo che, ritornando al discorso Bethesda Obsidian, partendo dal presupposto che Obsidian, vabbè, ovviamente loro hanno una posizione forza sicuramente inferiore a quella di Bethesda, nel senso che se loro chissà che gli hanno fatto ingoiare, vabbè, ma se loro ti propongono quel contratto, tu se vuoi lavorare a quel contratto devi firmare, no? Però è chiaro che non era un contratto su un premio di vendita, no? Ad esempio, avete venduto 5 milioni di copie, ok, vi riconosciamo un bonus del 10%. Nonostante il grande successo del gioco e quella qualità, anche per certi versi, no, voglio dire, era sicuramente per certi versi più rifinito, almeno all'uscita, di quanto era Fallout 3. Per certi versi, non vorrei attirare le ire funeste di tutti. Insomma, voglio dire, cioè, nel senso, invece di basarti comunque sul merito effettivo, ti basi su un principio numerico che è quello di Metacritic. Io ribadisco, è vero che Roberto, ci sei? Sì, ci sono. È vero che ci sono molti sospetti proprio rispetto, oltre al fatto che controversa, sono molti sospetti sulla reale validità, insomma, delle votazioni di Metacritic. Cosa intendi, scusa? Nel senso che è un sistema facilmente manipolabile. Dall'interno, chiaramente. All'interno ti intendi Metacritic stesso? Dall'interno non è che il Metacritic si manipola da solo, insomma. Nel senso io dico, ok, Bethesda, Obsidian fanno un contratto, 85 è la valutazione, guarda caso 84, no? Nel senso, okay, è comunque qualcosa, cioè se ci fossero altri esempi, e mi pare, ma adesso io non ho potuto approfondire la questione e fare ricerca, se ci fossero altri esempi del genere, insomma, ti verrebbe un po' il dubbio, cioè è corruttibile, esatto, Metacritic. Bravo, è questa la domanda fondamentalmente. No, questa non è interessante, adesso che in linea di teorica no, perché se non è semplice media matematica o poco più, è difficile che tu possa in qualche modo corrompere tutto, a meno che tu, l'unica possibilità che puoi avere è includere nella media una serie di votazioni che negative per un qualche criterio, e quindi in tale modo abbassi la media complessiva. Ecco, quello che non mi è chiaro ad esempio è il campione che viene scelto per fare queste votazioni. Questo sicuramente un aspetto potrebbe essere approfondito, ed è l'unico punto debole che vedo in quello che potrebbe essere una media matematica. E comunque su Metacritic c'è anche il voto del pubblico che incide su quel totale, giusto? Sono due cose separate, cioè il voto della critica e il voto del pubblico. Poi, se non sbaglio, c'è anche una valutazione complessiva quando tu vai a fare le pulci, vedi appunto le due categorie divise sostanzialmente. E questa cosa bisognerebbe controllare, se chiedevano il complessivo o quello della critica. Che se fa il complessivo, alla fine, volendo, quello 0-1. Sì, sì, fra l'altro, ad esempio, c'era un piuttosto che pagare 5 milioni all'Obsidian, pago 500.000 euro a un po' di persone e faccio mettere dei due a casaccio a destra per la mente. Gli bastano un po' di bot senza grosse difficoltà. Gli sganassoni, risolvi tutto. Botte via. Botte non botte, dai. Stefano? Aspetta. Ah, scusa. Ho un elemento, nel senso che a questo riguardo, se ti interessa, c'è stato un discorso anche di Telltale, che se non ricordo male, gli alcuni sviluppatori che erano andati a recensire con dei 10 il loro gioco per alzare la media Metacritic. Sì, ricordo anche io. Ed erano stati sgamati senza pietà. E infine, se può essere interessante approfondire in qualche modo, magari riusciamo a contattarlo. Esiste anche un sito italiano, che è italiatopgames.it, che fa lo stesso lavoro ma solamente per il mercato italiano. Adesso dubito che venga preso come riferimento per quello che è il... Capire una media delle medie è bellissimo proprio, realismo puro. No, ma poi la media delle valutazioni italiane c'ha valore, no? E se non andrebbe, avrebbe appena appunto approfondire con lui. Se sono positive, sì. Trovo possa avere poco senso, partendo dai presupposti che bene strutturava prima Luigi. Poi, se può avere un senso o meno, magari chiedi direttamente a chi fa questo tipo di lavoro. Ok, Stefano, no, io... sei corruttibile come Metacritic? Io dipende, su certe cose sono corruttibile, su altre no, dipende un pochettino, ma tipo sulla cedrata sono molto corruttibile, ad esempio. Però su Metacritic no, ecco, io volevo portare l'esempio che poi ha portato Roberto con in questo caso gli sviluppatori di Telltale, che si sono autovotati il gioco, quindi magari non è tanto la corruttibilità interna di Metacritic quanto la corruttibilità complessiva del sistema Metacritic, che risulta appunto ancora una volta in questo caso troppo impreciso, perché se io dico non lo so, faccio un gioco e ho 200 amici su Facebook e tutti mi votano il voto massimo, magari ho fatto una schifezza, però quel gioco lì viene valutato dagli utenti in maniera positiva, oppure non lo so, insomma, secondo me è troppo poco appunto, è troppo poco impersonale per essere preso come punto di riferimento, ed è corruttibile in tutti e due i sensi. Non, come dire, non dubito magari in certi casi della buona fede che ha Metacritic per se stesso, ma non mi fido, come in questo caso, dopo aver sentito storie come quella degli sviluppatori di Telltale, di quanto i giudizi possono essere presi in quella maniera. È chiaro che però, ecco, ti trago una bella figura di merda. Sì, no, ma dico, c'è da dire che comunque il gioco era Jurassic Park, può essere? Immaginavo. Vabbè, quello è comprensibile, perché hanno visto il prodotto che hanno realizzato. È un giocone, insomma. Comunque... Sì, l'ho messo sulla fascia gialla, eh. Ah, beh, allora. Sulla fascia gialla. Boh, vabbè, niente, lasciamo stare. No, quindi dico. E secondo me, appunto, non c'è da dire di buono che comunque la cosa è venuta fuori, quindi c'è un qualche tipo di controllo, magari non so in che modo, ma se questo è venuto fuori probabilmente possono venire fuori anche altre magagne. Non è un sistema, adesso non per criticare l'Italia, ma non è un sistema proprio come il nostro in generale, che cioè magari tende ad essere un po' più meritocratico in questi casi, però e soprattutto con qualche forma di autocontrollo su se stesso, però non mi fido comunque, soprattutto dopo casi come questo, ecco. Tutto qui. No, il problema è che fino a che rimane un sistema di valutazione potenzialmente oggettivo, ma in realtà poi alla fine è però comunque fino a se stesso, nel senso al quale se ti va ci fai riferimento e va bene. Il problema è quando poi in realtà Metacritic entra anche involontariamente, perché non è che è sua scelta, chiaramente, però entra in questioni di merito che sicuramente non gli dovrebbero spettare, come appunto la scelta dei curriculum dei vari programmatori o sviluppatori, oppure sui contratti commerciali delle aziende, perché comunque è sempre un sistema che ma quella è colpa delle aziende, non è colpa di Metacritic, ecco. No, infatti non è un problema di Metacritic, è chiaro, perché poi è indirettamente cioè non è responsabile non direttamente, esatto. Va bene, posso spezzare solo una lancia? A favore? del discorso del, dell'utilizzo di Metacritic come metodo di paragone. Ma anche no. Vabbè, allora basta, torno nella mia. No, no, vabbè, dai, facciamo, ecco, facciamo una valutazione finale. Tu, Roberto. Sì, diamo un voto alla puntata. Luigi e poi Stefano e Mario. Io volevo sentire quello che diceva Roberto. Beh, sì, punto, Roberto. Grazie Luigi, sempre migliore. No, semplicemente che comunque per chi lavora nel campo del, forse ce n'ho questo discorso anche l'altra volta, per chi lavora nel campo del PR, avere un metro di paragone di come viene valutato il gioco del recensore è importante per avere un ritorno sul proprio lavoro. Mentre prima, in un'epoca cartacea, questo metro di paragone, mi sembra essere già accennato, era relegato fondamentalmente alle copertine che si riuscì a ottenere, adesso il metro di paragone, soprattutto per l'estero, appunto il voto che Metacritic che prende, quindi è più una valutazione di chi fa il PR che più che magari il gioco complessivo. E ha senso, può avere senso in questo senso, secondo me. Ma tu dici solo in questo senso, però, cioè esclusivamente in questo senso, o cioè tramite questo senso assume anche valore generale? No, secondo me ha più senso, cioè ha fondamentalmente senso per valutare la bontà del lavoro a un PR più okay. che per valutare la bontà di un gioco. Quindi dici come utilità per addetti ai lavori più che esatto. per ok, bene, capisco. Pizzi. Niente, Luigi, una valutazione finale, un parere, un'opinione, valutazioni, non valutazioni, sistemi di giudizio. Metacritic non è amore per il videogioco. Bravo, ma questa è la sintesi estrema. C'ha ragione. Bravo. Metacritic non è amore Mica in generale. Poi Metacritic copre tutto, quindi non è amore in generale. Può essere, per esempio, se fai Metacritic. Ma lasciamo perdere che è meglio. Marco? Sì, insomma, diciamo che c'è ancora da sviluppare per quanto riguarda il metodo di giudizio, c'è ancora da crescere, per cui chissà che Metacritic un giorno diventi qualche altra cosa, tipo una setta. Metacriticology, una cosa così. Ma che già non lo sia, poi. Anche. Si può dirlo. Stefano, sulla tua dieta? Io sì, più o meno sì. Io mi auguro semplicemente che in generale la critica mondiale, ma soprattutto quella italiana per quanto mi riguarda, abbia un certo salto di qualità e si accomuni un po' quella cinematografica, e che Metacritic magari sia da esempio per poi diventare insomma qualcosa che poi, in modo che ci sia una contrattura e che vengano creati magari dei siti simili che utilizzino dei criteri un po' più precisi, un po' più diversificati. Però potrebbe essere anche un male necessario Metacritic, ecco, in questo caso non lo so, sono alla fine della fiera, forse è un male necessario, cioè magari è qualcosa attraverso la quale dobbiamo passare per poi avere qualche cosa di meglio dopo. Però sospendi il giudizio. Il giudizio mio su Metacritic penso che si sia capito, non è assolutamente positivo. Sono d'accordo con quello che ha detto Roberto, ma in linea di massima non è positivo. Ti lasci però ai poster, una piccola speranza. Ai poster l'ardua sentenza. Soprattutto ai poster. Pensa che questo valutazione, commento finale di Stefano, ma talmente stupito. Io direi che possiamo andare alla parte finale della trasmissione. Vabbè. Scusate, so che sono rompiballe, però mi piace essere. Tu pensi alla fine, tam, punto di sorpresa. No, solamente per segnalare, giusto perché poi magari gli ascoltatori possono in qualche modo approfondire. Qualcosa anche in Italia sta muovendo, e gli invito a visitare il sito Game, che produce una serie di saggi e di analisi sul videogioco un po' più strutturate e che vanno al di là di quello che è la semplice recensione per l'acquisto. E il sito è game.it? Sì. No, si chiama Game, poi ti dico il game. Sito, no, il sito non è game.it, perché se guardo su game.it mi manda un sito giapponese che parla del gioco Seaman per Dreamcast, quindi aspetta che ce l'ho io indicizzato già su la mia barra Safari. Gamestudies.org può essere, però no, questo è l'inglese. Sì. Vabbè, facciamo che lo mettiamo nelle note dell'episodio. Esatto, secondo me okay. È veramente un sito che merita. Gamejournal.it. Perfetto. Gamejournal.it. Allora. Okay. Allora, i commenti finali, insomma, di, cioè, di commenti che abbiamo ricevuto, i feedback che abbiamo ricevuto dai nostri utenti, dai nostri ascoltatori, che insomma ha visto un po' di movimento. Io direi che questa è la parte più bella che lasciamo a Marco, oppure ti vuoi alternare con Stefano? Innanzitutto comincio io, perché Stefano insomma ha letto la prima cosa, magari è ancora stanco, sai? I tempi di recupero, dei cool down time. Esatto. Poi ha anche espresso l'ultima opinione lì. In maniera con un italiano quasi articolato. Esatto. Quindi questo qui l'annuncio, l'appello, lo facciamo dopo, non lo facciamo, ce ne frega la cippa. Non lo so, tu vai avanti, poi vediamo. Allora, dal sito Dietrologia Videoludica trasmettiamo un commento del Finnico. Chissà chi sarà questo Finnico. Andrea Milano. Anch'io pensavo fosse qualche ascoltatore sconosciuto, invece è il solito. Se fosse stata la Finnica, dovrebbe essere la Finnica. Viva la Finnica! Guarda Milana che Torino è in bocca, continuerò a dirlo all'infinito. Comunque, fico il nuovo sito, Mr. Pizzi. Però eviterei di usare Flash in generale, soprattutto per l'ascolto delle clip audio, come ad esempio in questo articolo. Da iPad non si pote. E poi Flash fa cagare, diciamocelo, orsù. Per il resto ottimo lavoro, continuerò a seguirvi e appena vi trovo. PS, ma è vero che presto uscirà in edicola l'album delle figurine di Luigi Marrone? Confermo, stiamo tirando su un business. Assolutamente sì, assolutamente sì, c'è tutto un movimento. Sì, ho fatto anche un calendario tra poco, guarda. Ignudo, ovviamente. Nudo artistico. Per quanto riguarda il discorso del Flash, Andrea, hai ragione, ma purtroppo devi capire che su 5 persone all'interno di questo portale nessuno mi ha dato una mano nel far partire un plugin in HTML5, e quindi un plugin che facesse visualizzare un player audio compatibile, universale un po' per tutti, quindi mi sono dovuto riadattare al fottutissimo Flash, player in Flash, per carità, insomma. Però io dico, ma avendolo l'iPad va sul caro iTunes e si scarica l'episodio. Ma a lui gli piaceva venire sul sito, vabbè, saranno quei ragazzi suoi, no? Per carità, io no. Perché in Norvegia si usa così, Finlandia. Vai, poi è un gran film. Poi c'è un commento al mio articolo Essere e sentirsi pistola di Marco Paglia. Grande Marco Paglia. Che dice: non ho mai pensato di essere una pistola, bensì direi che talvolta mi sono sentito un pistola, non riuscendo ad avanzare nel gioco. In realtà dal titolo, senza guardare l'immagine dell'articolo, pensavo ti riferissi a questo. In qualche modo sì, essere pistola era un gioco di parole. Dalla pagina di Faccia Libro, Shuren ci manda un video. Un video che, dice lui, racchiude tutte le puntate fatte fino a qui. Non so se lo vogliamo vedere o... No, lo mettiamo nelle note dell'episodio, ma è una cazzatina, è roba su Mass Effect. Non basta. Specie, c'è un po' per culo. Basta, no, ha pienamente ragione. Io saluto Shuren, a cui voglio tanto bene. Anche io. Quindi non aggiungiamo altro. Nonna Mandragola, che al secolo è morta. Ci mancava, infatti. No, poi Luigi qua si intristiva. No? Ha aperto un sito dedicato a lui, adesso lo metteremo le note pure questo. Selezione marrone che è detta così, ma è bruttissimo. Selezione marrone sembra un sito per coprofagi. Comunque, in realtà insieme noi ne avevamo parlato sia qui che su Retrocast, il fatto che Morgan tagliasse gli interventi di Luigi e li mettesse su YouTube. In questo blog lui racchiude tutti questi interventi in un unico spazio, in modo da averli tutti ben organizzati e sempre fruibili. Sì, infatti è comunque un gran lavoro. Sì, sì, sempre un gran lavoro. C'è anche un'altra cosa: estrapola le frasi che ho pubblicato sul mio blog personale e le cita. È proprio un lavoro certosino di ricerca, non è differente, perché io non leggerei mai quello che ho postato, perché... Comunque ringraziamo Morgan e salutiamolo come sempre. Sempre con un diviso sulla schiena, fino a che Luigi Marrone è in vita. Parliamo tranquillamente anche su Facebook, ormai siamo amici praticamente. Ma sì. Tra poco anzi, a me mi ha riservato ultimamente anche piacevoli critiche pure su Archeologia Videoludica, piacevole nel senso positivo, quindi dice che sto crescendo. Altri 20 o 30 anni diventerai il maggior giorno diventerò Luigi Marrone dei vecchi. Allegria. Beh, io a questo punto direi che possiamo anche invitarlo. Io ci ho provato a invitarlo sul Retrocast. Morgan ha detto che lui è un ascoltatore, ma chi lo sa, forse prima o poi. Eppure sul multiplayer c'è andato. Su player c'è andato. Sì. Tra l'altro nella video diretta, mica nella diretta, nella cosa audio. Ah, pure. No, allora gli farò le mie rimostranze. Adesso gli muoverò una critica. Io, finalmente. Bene, Va bene, Google Plus, leggo che poi, commento. Ci sono i commenti da Google. Più che sono tantissimi. Ma qui io leggo che un anonimo ha scritto una cippa de. Adesso non so, io penso che sia qualcuno proveniente dalla zona di Roma. Lazio. Diciamo che è Marco che intende dire che da Google Plus. E nessuno ci ha scritto niente. Avevo come questa impressione, ma non lo so, sai. No? Ma io secondo me la chiuderemo anche la pagina. Ma Google Plus sembra un po' morto. È veramente il social network più inutile. A me dispiace. Ma social network ci sono io e William Shatner. Basta. il quale, essendo ubriaco, in realtà credi di essere su Facebook. Esatto. No, ma lui fa i Plusers. Ah, cioè, Plusers. Chi è? È un plus. Non so se l'ha coniata lui questa cosa. Muovi. Allora, poi, da TGM Online invece c'è. Dal forum di TGM Online. Non senti che lui va. Ah, fallo tu. Ah, io? Sì. No, io stavo solo imboccando a Marco, visto che è lui che ha scritto tutta la maratona. Okay, Marco, dai, forza. La possibilità di far vedere quanto sei migliorato. Giovanna 93. Dice: non ho ancora ascoltato la prima puntata, ma comunque l'idea sembra molto interessante. Ci voleva qualcosa che trattasse il tema dei giochi in maniera critica. In bocca al lupo. Vabbè, cazzo, di commento, non ha sentito la puntata. Però ci fa in bocca al lupo così. Grazie, crepi. Anzi, facci sapere, perché c'è una cosa che quando ascoltano, io sto per ascoltare e poi sparisco. Se intanto Biggio la smette di zompettare nel documento Google, ma non è che invece è una nostra conoscenza, mia e di Simone, quando frequentavamo il forum di Star Trek. Sì, persone che abbiamo insultato più volte. No, ma lui era quello che insultava mio piccolino insieme a noi. Mio piccolino era quello, è vero, c'hai ragione. Lui è il nostro alleato, è il nostro alleato di federazione. Niente video, solo chiacchiere e distintivo. Probabilmente non sa cosa sia un podcast. Vabbè, è questo pure. Numero 6 gli ha lanciato un Facebook. Scusa, podcast video. Ci sono anche quelli video. Povero Manuel. Ci sono, ma insomma nascono prima quelli altri. Gli hanno mandato un Facebook. Vabbè. Barbuto. Di materiale pornografico, cioè. Anche bello. Barbuto invece ci dice: bellissima idea la vostra, ma tu, Chain Dog, chi sei dei cinque i cui cognomi appaiono su podcast? Ci sei anche tu? Chissà, chi sarà, chissà. Chissà. Dai, svela io chi sei. Chi è? Gesù. Sono io. Sei il distruggitore. Chain Dog. Bellissimo. No, il bellissimo ci dice: bella idea, interessante e non banale. E poi basta. Poi abbiamo anche una recensione su iTunes. Aspetta, prima di passare iTunes, io salutiamo videogames.it che ci ha chiuso la discussione perché siamo andati un po' fuori dal seminato. No, raccontiamo. No, spiegatemi cosa è successo, scusa. No, che in realtà noi non facciamo promozione. Facciamo dello spam selvaggio. Cioè, lui e Marco che vanno i forum di tutti i siti. C'è un trend aperto su dietrologia videoludica attiva su tutti i siti. Tant'è che ormai ne scrivo anche qui. Forse su Eurogamer non ci sei andato. Su Eurogamers sì, però. Vabbè, lì, insomma, lui ha aperto tutti i forum, ha aperto e ogni volta che esce una puntata, è uscita la puntata, e prima o poi ovviamente lo segano, no? Perché chiaramente non è che diciamo che multiplayer una volta mi ha cazziato perché mettevo i link alle pagine, perché loro possono permettono lo spam purché sia non sia di pagine di altri siti, per cui corretta la cosa, mi ha detto ok, vai tranquillo, anzi carino su pari, quindi il multiplayer e che ne so, videogames.tgm online, e poi quell'altro sito che è Games Village, che praticamente è il nuovo TGM, sono più propositivi su queste cose, quindi sono più buoni. Invece videogames, proprio qualsiasi tipo di spam lo spancura. Vabbè, dai. So va bene, salutiamo Roberto Bertoni che ci ha dovuto abbandonare di corsa perché ovviamente aveva il pargoletto che ma si doveva allattare, quindi anche la febbre, quindi insomma dovuto scappare. Io a questo punto chi era? C'era un commento su iTunes comunque, ciao Roberto. Ciao Roberto, devi leggere il commento su iTunes. Ah, su iTunes, no vabbè, il commento su iTunes dice che stavo sempre a parlare di Mass Effect, insomma, quindi vabbè, ha ragione, dai. Non ha capito un cazzo, cioè, nel senso sì, c'ha ragione, però non ha capito niente, cioè, ha un po', senso, po' di ragione, quello, il nostro scopo. Pizzi, quindi, piuttosto tu non dovevi fare un annuncio incredibile? Sì, non lo fai? Non lo so. Non lo sai? No, invece quell'altra cosa, la richiesta. Qual è la richiesta? La richiesta d'aiuto. La richiesta d'aiuto? Da parte nostra? Cioè? Allora, certo, ci sono nuovi entri nella nostra banda anche... Per chi vuole contribuire assolutamente sì, giustamente, siccome che noi vorremmo che il nostro sito insomma pubblicasse frequentemente anche altri articoli, commenti, critiche, non soltanto recensioni chiaramente, ma anche approfondimenti, se qualcuno vuole dare una mano a Dietrologia Videoludica, ne ha capito il senso anche dal punto di vista degli approfondimenti e quindi dell'approccio insomma dell'analisi e della critica, insomma ci fa piacere insomma ricevere magari articoli anche per vedere insomma magari come prova o roba del genere, per entrare a far parte dello staff dal punto di vista testuale. Per quanto invece riguarda il podcast audio, potrebbe essere, lo so, questa è una cosa che mi distruggerà dentro, ma potrebbe essere la mia ultima trasmissione con Dietrologia Videoludica per scelte di strategia di Italian Podcast Network, perché purtroppo come sapete ci sono molte trasmissioni che sono condotte da me e non tutto posso continuare a portare avanti, anche perché sono arrivato a giugno lo scorso anno che parlavo come se ci avessi un microfono davanti alla bocca, insomma, e a mia moglie sembrava un po' strano, diciamo, perché parli con la voce modulata. Sappiamo che non ci abbandonerai comunque, cioè nel senso è solo non, un... non lo so, è da vedere, insomma, è da vedere, ma comunque vi lascerò sempre in buone mani. Cioè tipo tutto Stefano, tipo me, quindi che insomma sta imparando l'ordine della disciplina, comunque. Detto questo, io penso che a questo punto Luigi, buonanotte. Buonanotte a tutti voi e grazie insomma sempre della vostra presenza e del vostro amore per il videogioco. A differenza di Metacritic. A differenza di Metacritic. Buonanotte Stefano. Io vi ringrazio, vi saluto e la prossima volta vi ringrazio, passare una forza Lazio dalla Confederazione Elvetica, se tutto va bene. Quindi però avrete ancora mie notizie, di nuovo dal CH, insomma. Come? Sì, alla Vigliacca, sì. No, il CH. Ah no, per esempio alla Vigliacca invece. Però tu dici sì, va bene. Sì, da CH direttamente, quindi avrò una linea incredibile, avrò ping super potente. Però sei appena entra in Italia diventa una cacca, cioè, sì, un dettaglio. Ciao, buonanotte Marco. Buonanotte a tutti quanti, baci e abbracci e al prossimo episodio. Vedete il nostro sito, ciao. Ah sì, dietrologiavideoludica.it. vabbè